14A. Ascolta e controlla. 1. La signorina che è seduta al primo banco si chiama Gaia. 2. La macchina che è parcheggiata là è di mia sorella. 3. Il ragazzo che suona la chitarra è di Ginevra. 4. I giornali che sono sul tavolo sono vecchi, sono da buttare. 5. I dolci che preparo sono per Maria.